Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Noi siamo pronti, abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. O solo con la mamma o solo con il papà, quando i bambini fanno preferenza. Torcicollo? Muoviti così. Una prof per amica. Parte il conto alla rovescia per la maturità. Oggi è il secondo martedì del mese e questo, lo sapete bene, vuol dire mamme, no? Mamme blogger sono qui con me, come di tradizione, Yolanda e Veronica. Buongiorno a tutte e due. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non siete sole, perché il martedì delle mamme vogliamo anche un papà. E noi il papà ce l'abbiamo, è Alberto Pellai, che conduce con me Questa casa non è un albergo, e tra l'altro è papà anche nella vita, perché papà di 4 figli. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Devo dire che il tema che affrontiamo oggi insieme è stato scelto rigorosamente dagli utenti di Blog Mamma, mi ha un po' stupito. Parliamo di preferenze. Ci sono dei momenti nella vita del bambino in cui uno dei due genitori diventa preferito e l'altro si sente un po' messo in panchina. C'erano diversi temi, questo devo dire che ha stracciato tutti gli altri, segno che, Alberto, il problema esiste. Ed è sentito da tutte le mamme, non da tutte, ma da alcune mamme e da alcuni papà in modo anche molto molto forte. Ti sei sentito in panchina qualche volta? Ma io, guarda, poi ne parleremo durante la trasmissione, credo che quando c'è una notevole intesa nella coppia dei genitori, cioè tra mamma e papà, questo è proprio un aspetto su cui sia la mamma che il papà riescono poi a aiutarsi e bilanciarsi molto bene. A volte le preferenze possono invece essere lo specchio di un non allineamento tra mamma e papà, e a quel punto fanno soffrire il genitore che viene meno preferito dal figlio, perché in qualche modo denunciano uno stato irrisolto nelle relazioni o nelle emozioni, spesso all'interno della coppia genitoriale, che si ripercuotono poi nella relazione coi figli. 824 0024 se volete intervenire. Le nostre due mamme come affrontano questo problema? Cosa succede a casa vostra, Yolanda? Ma devo dire che coi primi due è filato tutto abbastanza liscio. La piccolina, forse anche per l'età ancora, per carità, perché sappiamo bene che i bimbi piccoli sono comunque più legati alla mamma. Ancora adesso che ha 5 anni, ogni tanto fa la preferenza tipo mi porta a letto la mamma, piuttosto che mi sveglio voglio la mamma, e questo succede. Però mio marito glissa abbastanza, nel senso che poi sono preferenze momentanee, ecco, non è una preferenza spiccata continua in qualsiasi occasione. Veronica, a te? Ma io ho notato, dunque, la bambina, pur essendo piccola, perché ha poco più di 2 anni, non ha tanto una preferenza per un genitore o per l'altro, perché sì, la mamma è sempre la mamma a quest'età, ma ha un atteggiamento più seduttivo nei confronti del padre. Cioè il padre è molto equilibrato nel gestire il rapporto con i figli, anzi forse preferisce il maschio perché è più facile per lui giocare o entrare in comunicazione vedendolo di meno di me, e la bambina vuole farsi notare da lui e quindi gli dà la carezza, gli fa il sorriso, ammicca, cioè già molto femminile, questo l'ho notato. Alberto, riusciamo a fare una carrellata di preferenze in modo che i nostri amici da casa possano in qualche modo ritrovarsi? Veronica ci ha dato uno spunto, la bambina è molto seduttiva nei confronti del papà, amica, insomma, fa vedere che lei riesce a dargli un trattamento diverso rispetto. Sì, si basa più sull'empatia che sul, certo, gioco da condividere. Ecco, mette le sue carte sul tavolo. Alberto. Ma dico che Veronica adesso con questa frase ha raccontato bene effettivamente, mentre tra papà e figlio maschio c'è una complicità molto forte sul concreto, sul fare, sul giocare. Tra bambine e papà invece la relazione è molto più legata a un percorso un po' emotivo, un po' seduttivo, e tra l'altro le bambine sono straordinarie a tirar fuori dal loro papà emozioni, stati d'animo che lui non ha mai messo in gioco, a volte mai con nessuno prima, spesso neanche nel rapporto di coppia, per cui si sente veramente travolto, spesso in balia di emozioni molto forti che gli vengono generate dalla sua bambina. Devo dire che diamo i titoli magari degli argomenti principali, certo, che oggi ci possono interessare. Il bambino che vuole addormentarsi sempre con la mamma o sempre con il papà. Poi il bambino che soprattutto tra i 4 e i 6 anni si mette in mezzo alla mamma e al papà, che magari si stanno abbracciando, coccolando, e vuole rubare il genitore di sesso opposto. Questo è quello che la psicologia chiama il complesso di Edipo, e che proprio in questa fase della vita di un figlio è molto forte e fa sì che un figlio voglia rubare, voglia quasi sposare il genitore di sesso opposto. Poi secondo me ci sono situazioni in cui i bambini sentono che magari nella coppia uno dei due genitori è più debole, più vulnerabile, allora si attaccano a quel genitore un po' con l'intenzione di proteggerlo. E quindi c'è un notevole ribaltamento del ruolo. Bambini che sentono che uno dei due genitori è troppo ansioso, troppo invadente, troppo protettivo, e a quel punto devono stargli lì vicino perché vogliono placare l'ansia. Magari questo a volte è nelle mamme. Marta ci scrive: ai giardinetti non posso parlare con nessuna mamma perché mio figlio Francesco si mette di mezzo e mi mette i musi. Vedo che Yolanda annuisce. Capitava, adesso sono più non grandi. Parlare, mamma, non ma... parlare con lei. Sì, stai zitto. Oppure proprio mentre tu parli si mettono in mezzo, dicono la loro, tirano, fanno fin quando... Al telefono. Sì, al telefono, qualsiasi cosa per attirare l'attenzione, sì. 824 0024, se volete intervenire, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Parliamo di torcicollo. Questa sembra essere la sua stagione, perché basta un colpo d'aria oppure un condizionatore un po' troppo violento, il nostro collo va KO. Vediamo come gestire il problema. In linea con noi abbiamo il dottor Gabriele Cirillo, medico fisiatra e medico dello sport all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti gli ascoltatori anche. Un fulmine a ciel sereno, direi, ma molto doloroso. Il torcicollo arriva quando meno ce lo aspettiamo. Sì, io direi che adesso siamo arrivati più o meno all'estate, capita spesso che in ufficio o a casa si utilizzino appunto dei ventilatori oppure dei flussi d'aria condizionata esagerati sul collo. In quel caso lì può capitare questa piccola patologia, che è sicuramente molto fastidiosa. Certo. Allora, per i nostri amici che ora hanno il torcicollo, ci dia un consiglio: cosa fare subito? Ma subito io consiglio sempre questo: di fare innanzitutto toccare la parte che dà fastidio e capire se ci può essere un vantaggio con un lieve massaggio, utilizzando magari anche dell'arnica in crema, che così non ci dà dei grossi effetti collaterali. Poi dico di fare sempre dei piccoli esercizi di allungamento dei muscoli del collo, quindi un po' di esercizi di stretching, ecco, potrebbero essere un valido aiuto. Cioè ruotiamo un po' la testa. Esatto, si ruota un po' la testa. Il capo, in modo che fa male. Però. Sia sul lato dove dà fastidio, sì, però non deve essere un dolore esagerato, quindi dobbiamo cercare di fare questi movimenti in assenza di dolore, perché se dà molto fastidio provochiamo una reazione opposta, perché il muscolo si contrae ancora di più. Quindi facciamo delle piccole mobilizzazioni sia sul lato dove ci dà fastidio che sul lato opposto, cercando di dare una lieve distensione al muscolo che in quel momento è contratto in difesa, perché è una protezione quella. Dottore, e degli impacchi caldi? Beh, questa sì, io generalmente consiglio degli impacchi caldi, magari da fare con la boule dell'acqua calda, anche se ormai si usa poco a casa, però spesso nelle proprie cucine abbiamo ancora una boule dell'acqua calda. Io consiglio di fare degli impacchi o solo col calore, oppure addirittura mettere un panno lievemente umido e poi dopo appoggiarci la boule dell'acqua calda, perché gli impacchi caldumidi dovrebbero dare una lieve distensione, favorendo l'aumento della circolazione del sangue in quella zona, dovrebbe provocare una distensione del muscolo e quindi darci un piccolo vantaggio. Vede che la boule dell'acqua calda torna sempre buona. E dottore, sarà perché tutti noi soffriamo un po' della sindrome di Atlante, ci carichiamo tutto sulle spalle, ma con il torcicollo anche le attività più semplici sembrano difficili. Ad esempio, stare seduti davanti al computer diventa una sofferenza. Ci dà qualche dritta? Certo, sicuramente. Soprattutto le persone che sono molto ansiose, tante volte scaricano la propria tensione sui muscoli del collo. Quindi noi dobbiamo cercare di stare attenti, se stiamo di fronte al computer per 8 ore a lavoro, non dobbiamo stare immobili in quella posizione per 8 ore, ma cercare di fare quegli esercizi di cui abbiamo parlato prima, di stretching ogni ora e mezzo, per provocare un po' di distensione dei muscoli che non sono nati per stare 8 ore di fronte al computer. E come ha ragione lei. Senta, e per chi guida lo stesso problema? Guidare con il torcicollo è doloroso, fastidioso e, se vogliamo, anche un po' pericolosino. Sono d'accordo con lei, Nicoletta, è un po' pericoloso perché se uno ha un muscolo molto contatto e molto sofferente sicuramente farà fatica, soprattutto nella retromarcia. Quindi sì, io dico e consiglio sempre, per il proprio benessere ma anche per quello degli altri, visto che se si guida un'auto si possono dare problemi poi anche agli altri, di valutare bene se si è in condizioni di guidare. Ecco, si possono usare i mezzi pubblici. Certo, va bene. Così guidiamo anche di meno. Senta, dottore, abbiamo parlato di lavoro, parliamo anche del tempo libero. Immagino sia meglio dare un breve stop all'attività fisica. Penso a tutti quelli che si allenano, corrono, vanno in bici. Ma sicuramente, io consiglio sempre di prendersi magari 2 o 3 giorni di stop se il dolore è particolarmente esagerato, e magari di fare qualche doccia in più con l'acqua calda, che proprio per il discorso che abbiamo fatto prima degli impacchi con la Bull ci potrebbe dare un vantaggio. Poi alcuni utilizzano anche il phon, no? E si trattengono un po' di più col phon sulla zona che è contratta, quindi anche questo potrebbe essere un piccolo consiglio. Vede, questo del phon mi piace. Senta, dare e invece nuotare fa bene, rilasso, meglio fare una bella sauna, sempre stando su quello che ci dice lei? Ma io direi che la sauna dovrebbe dare un effetto migliore, perché per il discorso che abbiamo fatto prima dovrebbe provocare un rilassamento del muscolo che è contratto. Insomma, il nostro torcicollo guarisce con il caldo umido, possiamo esatto dire così. Andiamo a stasera, trovare la posizione per addormentarsi col torcicollo è dura, viene la tentazione di cambiare il cuscino, di toglierlo oppure di mettere magari un altro cuscino. Lei che cosa consiglia? Rullo? Allora, io come consiglio in generale, perché poi ognuno chiaramente deve essere valutato, certo, singolarmente, dico di non esagerare mai con i cuscini, ma tenerne uno, diciamo, intermedio, che possa permettere alla colonna cervicale, che ha normalmente una curva che chiamiamo lordosi in termine tecnico, quindi vogliamo che il cuscino riesca a mantenere quella piccola curva che noi abbiamo sul collo. Quindi non deve essere né esagerata, quindi né troppo alta, ma neanche troppo bassa. E poi cercare eventualmente di fare quegli esercizi prima di andare a letto e provare il nostro calore che ci fa rilassare il muscolo. Poi chiaramente, se questa cosa persiste, consiglio anche di andare dal proprio medico di famiglia ed eventualmente decidere se prendere un miorilassante. Attenzione che questi farmaci sono farmaci che danno sonnolenza e quindi vanno sempre prescritti dal proprio medico. Ecco. Dottore, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, Nicoletta, e ci sentiamo presto. Prestissimo, buona buongiorno giornata. Pronto soccorso. Quando i bambini fanno le preferenze. Abbiamo in linea con noi Federico da Roma. Buongiorno Federico. Buongiorno a lei, grazie per avermi richiamato. Io sono al primo figlio, una splendida bimba di 2 anni che si chiama Camilla. Sì. E stranamente, almeno reputo io, poi scusate la scarsa esperienza, ma è la prima nascita che ho, per cui sinceramente non ho molta esperienza a riguardo. E ho notato che la bimba, pur essendo una femminuccia, è molto legata alla madre, vuole mangiare solo con lei, prende il latte da lei e via dicendo. Però invece in alcune situazioni che io definisco un po' di stress per lei, non so, la visita dal pediatra piuttosto che quando stai all'asilo e gli prende la classica crisi di pianto così, cerca sempre il papà. Che no. Federico, è il suo momento. Sì, no, infatti. E sveglia questa Camilla, ha diviso bene i ruoli e sa a chi rivolgersi per, no, trovare soddisfazione. Quindi sì, la figura paterna che protegge, la figura materna che accudisce. Alberto. Ma direi che hai già detto tutto tu con il tuo commento, ormai ne sai proprio più dell'esperto, Nicoletta, ma l'ha raccontato veramente molto bene, bene, Federico, perché parlando dell'abbraccio della mamma ha proprio fatto riferimento al mangiare, al latte, quindi un abbraccio che nutre è l'abbraccio della mamma, un abbraccio che protegge è l'abbraccio del papà. Spesso i papà, proprio in situazioni stressanti per i bambini, la malattia, un disagio forte, rispetto rispetto alle mamme vanno meno in ansia, sono meno attivati emotivamente, riescono a mettere la testa davanti all'emozione, la ragione davanti all'emozione, e questa dà molta sicurezza, molto senso di protezione ai bambini, ed ecco perché a volte si indirizzano proprio verso il papà, se ne sentono contenuti, raccolti, ecco, e protetti, e conseguentemente riescono a differenziare il maschile e il femminile. E questa secondo me è una funzione importantissima, raccontata bene dai gesti di Camilla, ma che noi come genitori possiamo tenere in considerazione proprio dal primo giorno di vita del nostro bambino, stando vicino intorno a lui coi gesti della cura. Abbiamo due stili diversi, noi papà e noi mamme, e conseguentemente riusciamo a fargli sentire il femminile e il maschile, e gli aiutiamo poi a selezionare lo specifico materno e paterno nel momento in cui ne hanno bisogno. Voglio leggervi un sms che ci ha inviato Paolo da Torino, che secondo me racconta una grande verità. Le preferenze dei figli per i genitori non possono non esserci, del resto è vero anche l'esatto contrario. Ogni genitore ha un suo figlio preferito, siamo umani, è scritto nella nostra natura. Yolanda, tu cosa ne pensi? È giusto quello che ci scrive Paolo? Abbiamo anche noi delle preferenze, figli con cui abbiamo si maggior feeling? Sì, esatto, secondo me dipende da quello, molto dipende dal carattere nostro e dei bambini, chiaramente, no? Quindi ci sono sicuramente dei bambini con cui si va più d'accordo, poi non è che gli vuoi più o meno bene di un altro, è proprio un feeling diverso, un concepire le cose nello stesso modo e quindi rapportarsi col mondo nello stesso modo, eccetera. Invece gli altri che hanno magari un carattere un po' diverso, c'è più scontro, non certo. È che gli si vuole meno bene, ok, ma è proprio un rapporto un po' più conflittuale, ecco, quello sì succede. Una cosa è certa, quando i nostri bambini, dopo i primi mesi in cui vivono proprio in simbiosi con noi mamme, si aprono al mondo e quindi si aprono anche al papà, che comunque secondo le indicazioni di Alberto Pellai deve comunque essere sempre a fianco alla moglie sin dal primo giorno e quindi giocarsi il suo ruolo, le mamme si sentono un po' messe da parte, anche se questo è sicuramente un passaggio di crescita. Veronica, tu cosa dici? Ma io sono assolutamente d'accordo, nel senso che mi capita spesso di parlare di questi argomenti con mio marito e per esempio lui si compiace che siamo diversi nei ruoli, ha ragione, nel senso che il padre deve fare il padre e la madre deve fare la madre, ma non per essere tradizionalisti a tutti i costi, cioè noi riteniamo che questi due esempi aiutino a creare diversità nel sistema educativo, tanto il sistema educativo, diciamo, offrire esperienze diversificate ai figli. A noi piace questa cosa, anche se magari in quel momento il figlio fa una cosa solo con il papà e la mamma non è coinvolta, o viceversa, perché c'è flessibilità. Secondo me è un'opportunità. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde per intervenire. Vedo già Luca che è in linea. Luca, buongiorno. Buongiorno. Eccoci di nuovo insieme nel salotto dedicato alle mamme. Oggi parliamo delle preferenze, degli slanci che i nostri figli hanno verso un genitore o un altro. Questo genera nel genitore che si sente lasciato un po' in disparte qualche dubbio, un po' di amarezza. E mi chiedevo se, intanto abbiamo Luca. Luca, intanto lo chiedo anche a lei, buongiorno. E mi chiedevo se e quanto questo stile, questa relazione che inizia, no, a strutturarsi nei primi anni di vita del bambino, che è più portato a scegliere per le attività ludiche oppure per le attività di addormentamento, un genitore piuttosto che un altro, condizioni poi la relazione dell'adolescenza. Perché diciamocelo, uno si chiede questo, ma se preferisce suo papà, quando poi diventerà grande, cambierà oppure io sarò sempre messa in disparte, mi racconterà, mi farà partecipe. Luca, ribongiorno. No, ma diciamo, io ho tre figli, la prima è sempre stata molto equilibrata, nel senso che ha scelto un po' di qua e un po' di là senza dare nessun tipo di preferenza. Il secondo aveva iniziato tipicamente come i bambini maschi, cioè, quindi mammone fino ai 3 anni e dopo è diventato una specie di cozza nei confronti del papà. L'ultima, che adesso compie fra poco 3 anni, è stata sempre una cozza nei confronti del papà. Quindi quando io torno dal lavoro ho due cose che non riesco a staccarmi addosso. Ho due. Quando non vanno a letto, la mattina è uguale, devo svegliarli io, darli a mangiare io. devo andare a farsi la doccia con papà, devo, cioè, lei come la sente? Come una fatica? Che ogni tanto, sì, devo essere onesto, sì, perché dopo 10-11 ore di lavoro, sì, uno è anche stanco. Ho staccato le cuffie ad Alberto Pellai, perché non ha sentito, perché lui avrebbe detto per me è una grande gioia. No, ma è una gioia, è indubbiamente una gioia. No, certo, però io la capisco assolutamente, ma io vorrei chiedere, Luca, e lo chiedo anche alle mie mamme e ad Alberto, in queste situazioni, anche per alleggerire il papà che torna stanco e non vuole deludere comunque comunque i bambini, nello stesso tempo povero uomo vorrà tirare anche un sospiro di sollievo. La stessa cosa si dice anche delle mamme, assolutamente. Ecco, io vorrei chiarire anche questo punto. Non è che dico dei papà perché le mamme non hanno bisogno, e direi che senza che cosa si, come può la coppia cercare di risolvere questa situazione, Alberto? Allora, direi a Luca che è proprio l'età dei figli che in qualche modo condiziona poi questa modalità di volere il papà tutto per sé a rientro dal lavoro. Il problema è proprio questo, e questo succede anche comunque quando le mamme rientrano dal lavoro, cioè i nostri figli ci hanno aspettato nella loro mente per un'eternità. Quindi se il papà è quello che è partito presto al mattino e non si è visto per tutto il giorno, al rientro a casa i figli ci vengono incontro e ci fanno un po' da cozza perché devono reimpossessarsi di un, proprio di un bene d'amore che loro hanno visto perso. E purtroppo forse il consiglio migliore è proprio questo, cioè non abbiamo diritto ancora a 10-15 minuti tutto per noi. Cioè il consiglio migliore da dare in queste situazioni è questo: torniamo a casa con l'idea che ci mettiamo sul tappeto per 10 minuti con i nostri bambini, e questo meccanismo placa la loro ansia di pensare di averci perso durante la giornata, e quindi nel ritrovarci loro si riavvicinano a noi e quei 10 minuti ritrovano una sorta di equilibrio. Ah, il papà effettivamente non è andato via, è ritornato da me, io ce l'ho ancora vicino, e a quel punto diventano molto più liberi anche loro di lasciarci andare. Comunque qualche spazio bisogna guadagnarselo. Assolutamente. Quindi prima i 15 minuti sul tappeto e poi un po' di tempo anche con la propria moglie, la propria compagna. Yolanda e Veronica, ma un consiglio marito, anche voi. Io ho un marito che viaggia molto, soprattutto in questo periodo, e condivido molto il consiglio di Alberto, perché effettivamente si produce la stessa situazione a casa mia, e poi noi cerchiamo di integrare con il telefono. Faccio parlare i bambini al telefono la mattina quando si svegliano, e a mia. Loro piace, sì. Yolanda, sì, tu sì, come sopravvivi? Sì, sì, così. L'unica è metterli appunto a contatto col papà o con me quando siamo stati via per un po', e dedicargli comunque almeno 10 minuti, un quarto d'ora, adesso, e poi via. Adesso tra l'altro arriveranno le vacanze, per molte famiglie le vacanze diventano, no, un momento di grande organizzazione. Magari le vacanze non coincidono, si inizia a mandare il papà con i due bambini, poi la mamma li raggiunge o viceversa, questo succede con il papà, insomma. Ci siamo, e soprattutto in linea con noi abbiamo Ambra Angiolini. Ambra, ciao, grazie mille. Io sono molto felice di essere qua. Avevo anticipato alle mamme e ad Alberto che ci saresti stata, e devo dire che tutti hanno fatto wow. Wow, figurati. Senti, Ambra, con i tuoi figli, come te la cavi? Preferenze? Sono mammoni, papposi? Come sono? Ma sono mamboni come credo tutti i bambini, o più o meno, insomma, adesso non so perché non generalizzo mai, penso molto ai miei, per cui sono mamboni, ma perché vabbè, insomma, credo di passare più tempo con loro rispetto al papà per ovvi motivi. In più se i bambini partono vengono con me, perché se lavoro voglio averli vicino, insomma è... gestiamo un po' così, ecco, il nostro stare con loro. Poi adorano Francesco e lui con loro hanno, e si ritagliano uno spazio anche di gioco e di un rapporto totalmente personale, dove magari io entro poco e poi quando ci ritroviamo tutti insieme è sempre festa. Però insomma, ecco, diciamo che la maggior parte del tempo e dell'organizzazione dei bambini me la gestisco un po' io, ecco. Come succede in generale alle mamme? Tu, Ambra, dicevi adorano Francesco, e lo crediamo, perché lui deve essere un papà tenerissimo, ma quando lo vedono, e avevamo proprio Luca prima in linea con noi che diceva quando i miei bambini mi vedono mi si attaccano proprio come cozze, succede anche a casa vostra con Francesco? Ma guarda, ed è strano perché Francesco è più autoritario di me, soprattutto per le regole, molto più il papà che ci tiene a certe cose, e io sono quella che ha più voglia di giocare, di travestirsi, di fare sempre un po' festa, ecco, e di concedere qualche trasgressione che loro trovano estremamente curiosa, divertente, proprio perché è tale, insomma, perché esce dalle regole quotidiane, no? Quindi io ho un rapporto molto fisico con i miei figli, cioè di grande coccole, baci, abbracci, cioè siamo davvero forse insopportabili alla vista degli altri, non lo so. No, io posso dirti Ambra, io sono stata e sono e sarei ancora una mamma proprio fisica, perché però le mie ragazze ormai hanno 20-18 anni, si lasciano ancora baciare, ma crescendo i baci sono, insomma, si fanno baciare da altri, ecco, quindi io dico le mamme piccole, baciateveli. Io vado ancora di nascosto quando loro dormono, le poche volte che io torno, cioè le trovo addormentate a letto, allora vado e cerco ancora, non lo trovo più, ma lo cerco, così, quel profumino che hanno i bambini nel collo, Ambra. No, Madonna, io quella è una roba che uno, io vorrei metterlo in bottiglietta, non so, devo chiedere a Laura Tonato di creare un profumo di, non so, che ricordi, no, quello, no, dei, io non vorrei mai commercializzarlo perché ne sono anche gelosissima di, no, però cose quando qua. Poi loro vanno, allora quel profumino, quindi Ambra, baciateli tanto, no, guarda, davvero, non hai bisogno che te lo dica, ma insomma bisogna goderseli questi, non momenti, non mi risparmi assolutamente, per questo ti dicevo siamo molto diversi, e forse anche un po' per fortuna, perché questo ruolo che è mamma e che è papà, ma a me è un po' inquieta, cioè da ragazzina mi ricordo che io volevo sapere che la mamma era la mamma e il papà era il papà, e con tutti i pregi ovviamente di due ruoli che però secondo me sono comunque diversi, e forse anche il suo bello, no? È vero, Alberto. Sì, io dico proprio che poi Ambra ce l'ha fatto capire, probabilmente nella loro coppia genitoriale c'è una mamma che tiene tanto e poi un papà che probabilmente aiuterà questi bambini anche a esplorare un po' il mondo che c'è fuori di casa. Senti Ambra, poi siete proprio belli, mi piacete, ma un, guarda, sacco tutte e due, perché io ho avuto modo di conoscere Francesco, l'ho coinvolto anche in quell'avventura Influenza te la canto e gliela suona, abbiamo fatto con lui la puntata di Natale, e devo dire che è proprio è un uomo innamorato della sua famiglia, di Ambra, è proprio una famiglia bella che a chiudere, insomma, mi piacete un sacco, io sono molto contenta che tu sei venuta, Ambra. Grazie. Un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Alfredo, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno. Di chi è lei il preferito, Alfredo? Scusi, non sento bene. Di chi è lei il preferito? No, credo di non essere preferito e di non avere preferenze. Mi interessava conoscere se e come la separazione può influire però su un discorso di preferenza, ovviamente dei figli rispetto ai genitori. Alfredo, lei ci dà uno spunto molto interessante, e Alberto, ne abbiamo parlato anche diverse volte in questa casa, non è un albergo, quanto e come la separazione rappresenti veramente un momento di difficoltà, no? Nei bambini, nei ragazzi che devono un po' ricollocarsi. Alfredo giustamente ci ripropone questo spunto che credo sia interessante affrontare. E la separazione è proprio un passaggio complesso per tutta la famiglia, sia per i genitori che per i bambini, e rischia di generare alleanze protettive da parte dei figli nei confronti del genitore che viene sentito più debole o più affaticato dal percorso di separazione. Ci tengo a dire che questo però riflette la non chiarezza, l'incapacità di mamma e papà di sapersi separare bene, per cui di solito i genitori, quando non si separano bene, quando non hanno risolto almeno ciò che riguarda il loro essere mamma e papà nei confronti dei figli, generano poi nei figli delle posizioni di disallineamento rispetto all'uno all'altro, per cui è molto molto importante in questo passaggio avere in mente che ci si lascia come partner affettivi, non ci si lascia invece come mamma e papà dei propri figli, e bisogna costruire un'alleanza molto forte che fa bene alla relazione con i propri figli, ma non dimenticatevelo mai, farà bene a voi mamma e papà per tutta la vita, perché i vostri figli sono per sempre. Felipe da Viterbo, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, sì. Ho 41 anni, ho sì. due figlie femmine, una ne ha 12 di anni e una ne ha un anno adesso, appena compiuto, un anno e poco più. Sì. E devo dire che io lavoro tantissimo, lavoro tutta la settimana, mia moglie non lavora e accudisce i bambini. Sì. Quando io torno a casa, ho due giorni che poi stacco completamente, sono a casa. Io mi riposo tenendo i miei figli 24 ore su 24, li faccio da mangiare, li faccio il bagno, li faccio tutto praticamente. Mia moglie va in vacanza due giorni. E lei diventa la mamma e il papà insieme della casa. La mamma e il papà insieme, con le regole, li riprendo, cioè riprenderle, però ci gioco, li bacio, insomma, diventa un momento nostro, due giorni proprio di vacanza per la mamma e per me anche, solo che io me li godo al 100%. Bello, Yolanda, ti piacerebbe? Mi piace molto questo. Vabbè, preferirei chiaramente che il lavoro del papà non fosse così lontano per 5 giorni di fila, è chiaro, ma dovendo avere una situazione di questo tipo è bello quest'idea che la mamma si possa riposare, che lui si riposi con i suoi bambini, è molto bello. Grazie a Felipe. Volevo leggervi un messaggio di Marco che ci scrive da Milano: lavoro 12 ore al giorno e magari al mio ritorno trovassi mia figlia di 13 anni che mi fa da cozza, non mi saluta nemmeno anche se le do il massimo della mia disponibilità, anche se sono stanco, dove sbaglio? Abbiamo parlato di preferenze e ci sono invece delle situazioni in cui noi sembriamo veramente trasparenti agli occhi dei nostri figli e lì la sofferenza è grande. Alberto? Allora, a Marco... Si recupera però, certo. Ecco, possiamo dare due consigli? Io ne avrei, ma sei tu l'esperto. Beh, a Marco da Milano direi che tutto quello che abbiamo detto prima sul papà che va al tappeto con i propri bambini quando torna a casa non vale per un figlio preadolescente e adolescente, perché l'obbligo ci obbliga a cambiare i tempi della relazione, non sono più i nostri tempi ma sono i suoi tempi, e quindi una figlia che neanche ci saluta quando arriva a casa dal lavoro il papà effettivamente è abbastanza frequente. Quella non è una figlia che dobbiamo invadere con la nostra ansia di volerla vicina esattamente in quel momento. A noi piacerebbe molto, perché dobbiamo proprio saper aspettare. Direi che molte mamme e papà all'ascolto lo possono proprio confermare, che a volte un figlio ti lascia muovere per casa, non ti dice una parola, poi improvvisamente viene da te dopo un'ora che sei tornato a casa e comincia a raccontarti magari una storia incredibile. Se sai non invaderlo, se gli dai la percezione che sai stare con lui, ma non vuoi proprio colonizzare, devi mettere delle bricioline, saper aspettare. Io direi che la regola è proprio quella per un genitore di un preadolescente: devi mettere un po' di bricioline e aspettare che lui le annusi, che scelga lui il momento e arrivi. Io non ho figli preadolescenti, ma ho un'amica che ha due figli, uno di 11 e una di 16, e fanno delle vacanze meravigliose in camper insieme, e credo che questo sia il loro modo per stare insieme. Non solo, in questa famiglia hanno stabilito che fanno un'attività il padre con la madre a parte, la madre con il figlio, la madre con la figlia con il padre, il figlio con il padre, cioè si sono creati un'agenda pazzesca, sì, incredibile. Però, allora io ringrazio le mamme, appuntamento al prossimo martedì. No, secondo martedì del mese di luglio. Alberto invece torna con Questa casa non è un albergo. Sabato saremo in diretta con una puntata della maturità. Grazie anche quindi ad Alberto. E che dire allora, figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, lo si dice sempre. Adesso tra l'altro i figli grandi, al di là delle, avrebbero una cosa che preferirebbero assolutamente non fare: la maturità. Ma noi abbiamo pensato a voi che siete genitori di ragazzi che stanno facendo un po' il conto alla rovescia per buttarsi in questo che diventa un po' l'esame proprio incubo di ciascuno di noi. Ci sono persone ancora che se lo sognano. Abbiamo pensato di darvi una mano con una prof per amica, Paola Melo, docente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Insegnante di scuola superiore e giornalista. Allora, uniamo le competenze per cercare di dare una mano ai ragazzi e ai loro genitori. Ah, certamente, è un sostegno a tutta la famiglia in questo periodo che si vive come stress, incubo, ma anche come tappa per crescere. Tutti, anche i genitori devono imparare dei comportamenti, ma insomma parliamo poi dei maturandi che certamente hanno un po' di tremarella. Quindi, ma ragazzi, avete la maturità, siete affamati di incoraggiamenti e consigli, seguiteci perché oggi inauguriamo questa breve rubrica, poi troverete ogni giorno un consiglio sulla pagina di Essere Benessere. Maturità, M come? Materie, tante. Che spaventano, come mi organizzo, oddio, pochi giorni, tante materie da ripassare, quale argomento, da quale incomincio, devo studiare addirittura ex novo delle cose, parola d'ordine, tranquillità e calibrare il tempo. Calcolare effettivamente con una tabella di marcia da manager il tempo che si ha effettivamente a disposizione, non quello che vorremmo avere se potessimo avere ancora 3 mesi di preparazione. Quindi ragazzi, veramente vi chiedo di calcolare per esempio che 7 giorni sono formati da 168 ore, di cui 84 a disposizione per lo studio. Quindi quante ore bisogna studiare al giorno? Bisogna studiare circa 4-5 ore concentrati, partendo dalla mattina e dalle materie più difficili, quelle che ci impegnano di più e che vorremmo lasciare per ultimo, invece bisogna proprio fare al mattino quando si è più freschi. Ricordatevi che altrettanto importante sono le 56 ore per sonno, di sonno alla settimana, che sono veramente tanto importanti quanto le ore di concentrazione nello studio, perché ci servono a riequilibrare, insomma, lo stress. Quindi, da quanto lei mi dice, il consiglio per i genitori è: non fate studiare i figli dopo cena, interrompeteli quando dicono ma questo non lo faccio, oggi pomeriggio sono stanco, l'ansia, studio, no, dopo mangiato, magari tiro avanti. No, bisogna dormire. No. Bisogna dormire e studiare. E studiare. E i genitori magari non dare il cattivo esempio, cioè anche voi andate a letto un po' prima, fatevi sorprendere dai figli con un bel libro sotto le coperte o sopra le coperte perché adesso fa caldo. Ma non uscite alla sera così con allegria lasciando i poveri ragazzi. Quindi la famiglia in ritiro, inizia il conto alla rovescia per la maturità. Noi oggi abbiamo analizzato M di maturità come materie, ma nel corso delle nostre incontri insieme alla nostra prof per amico parleremo di A, T, U, R, I, T sì. E di nuovo A, maturità. Tanti consigli per noi genitori, perché ci tocca, e per i nostri figli. Professoressa Melo, allora noi ci sentiamo, anzi la possono riascoltare domani andando sul sito di Radio 24 nella pagina di Essere Benessere, consigli per genitori e ragazzi, ragazzi e genitori. Grazie, buona giornata anche a Paola Melo. Buona giornata a tutti. Buona giornata a voi che ci avete seguito. Appuntamento allora come sempre domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone. Essere e Benessere.